Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori. Un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 656. Una puntata che parte con una buona nuova, nel senso che nasce una collaborazione, un'attenzione verso un'etichetta che è la Notami. E stasera iniziamo subito con la presentazione di un progetto discografico pubblicato da questa etichetta. La Notami presenta Marco Postacchini in ottetto. Il gruppo di Marco Postacchini è formato da musicisti molto conosciuti a livello nazionale che in vari periodi sono già stati promossi nel mio programma, quindi conosciuti già al pubblico, almeno in parte, conosciuti al pubblico di Anima Jazz. Marco Postacchini è un sassofonista tenore, compositore, che ha realizzato questo progetto discografico intitolato Lazy Saturday a nome di appunto Empis Jazzy Bunch, cioè Marco Postacchini Jazzy Bunch, Marco Postacchini Ottetto. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è una composizione originale dello stesso Marco Postacchini che è intitolata Olden's Night. Buon ascolto quindi con il Marco Postacchini Jazzy Bunch Ottetto. Bene, questa era la MP's Jazzy Bunch di Marco Postacchini, questo ottetto formato da Marco Postacchini al sax tenore, Simone Lamaida al sax alto, Samuele Garofoli alla tromba, Massimo Morganti al trombone, Andrea Solarino alla chitarra, Emanuele Evangelista al piano, piano Fender, Gabriele Pesaresi al contrabbasso, Alessandro Paternesi alla batteria. Una band, come dicevo prima, di ottimi professionisti, seppur in alcuni casi ancora in giovane età, sicuramente con grande esperienza e con capacità interpretative notevoli. Si tratta di una band che in questo progetto discografico dimostra un feeling gradevolissimo, una bella comunione di intenti, e belle sono le performance solistiche di ogni elemento in ogni situazione. I pezzi si alternano con gradevolezza, per cui l'ascolto è sempre interessante. Questo era un pezzo di energia con una bella ritmica e con dei begli assoli, ma ci sono anche dei pezzi slow veramente molto godibili e realizzati con grande sentimento, con grande partecipazione, per cui in ogni situazione, al di là delle caratteristiche del pezzo, viene fuori non solo la capacità tecnica ma anche la sensibilità di questi ottimi musicisti. Ricordo che questo CD è intitolato Lazy Saturday ed è pubblicato da Notami. Lasciamo il Marco Postacchini Octet e andiamo a continuare con il buon jazz italiano. Adesso ci ascolteremo un'ottima cantante che si chiama Daniela Spalletta e che, grazie proprio a questo nuovo CD pubblicato dall'Alfa Music intitolato The Birth, è stata selezionata per il Dubidubidù 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane. Daniela Spalletta è supportata da un ottimo gruppo, l'Urban Fabula, che io promuovo da molto tempo e che ho avuto il piacere anche di incontrare, di ascoltare dal vivo, di abbracciare in occasione del Barga Jazz Festival, nel quale io ogni anno, non so se anche quest'anno, ma insomma ogni anno ho il piacere e l'onore di essere in giuria per il concorso delle band emergenti a livello nazionale. Il pianista del trio di Urban Fabula, Sebi Burgio, ha vinto il premio come miglior solista, e quindi sicuramente un gruppo da tenere veramente d'occhio, con ottimi musicisti. Daniela Spalletta quindi alla voce, Sebi Burgio al pianoforte, Alberto Fidone al contrabbasso, Peppe Tringali alla batteria e percussioni, e poi in alcuni pezzi abbiamo anche lo special guest di Max Ionata e dell'Hermes String Quartet. Stasera noi ci ascolteremo un pezzo intitolato Mani Pura, si tratta di una composizione originale di Daniela Spalletta, e questo pezzo vede anche la partecipazione di Max Ionata, chiaramente al sax. Buon ascolto. Yeah. Bene, questa era l'interessante performance di Daniela Spalletta insieme ad Urban Fabula e allo special guest Max Jonata. Daniela Spalletta, vocalist ma anche compositrice molto interessante. Avete sentito questa composizione per niente banale, per niente scontata, con molti punti di grande respiro e nello stesso tempo di grandi tensioni, di grandi imprevedibilità che rendono l'ascolto del pezzo veramente molto stimolante, molto interessante. Una composizione difficile, particolare, che sottolinea il coraggio di questa cantante e compositrice, che con questo CD veramente, in un momento non certo facile, in un momento anzi decisamente difficile, mette in gioco la sua capacità creativa con veramente grande coraggio. Un progetto supportato da straordinari musicisti, come dicevo prima, il gruppo di Urban Fabula, gruppo giovane ma già di grande esperienza e con performance personali veramente di alto livello, e poi lo straordinario grande Max Jonata, che è sempre una sicurezza per la sua grande professionalità ma anche per la sua grande sensibilità. Veramente un ensemble ottimo, che fa di questo CD intitolato Deep Birth, pubblicato dall'Alfa Music, è veramente un prodotto straordinario. Complimenti anche all'Alfa Music per aver dato fiducia a Daniela Spalletta con questo progetto, che l'ha fatta selezionare per il prossimo Festival delle Voci Jazz Italiane. Andiamo avanti. Dopo Daniela Spalletta, adesso facciamo un salto un po' all'estero e ci ascolteremo un gruppo che si chiama The Kandinsky Effect. E questo gruppo per la Cuneiform ha realizzato un CD intitolato Somnambulist. The Kandinsky Effect è un trio formato da Warren Walker al sax, Gail Petrina al basso e Caleb Dollister alla batteria. Il pezzo che ci ascolteremo è proprio quello che dà il titolo all'album, e quindi Somnambulist. Buon ascolto quindi con The Kandinsky Effect. Questa era la musica di Dickendinsky Effect, questo trio formato da Warren Walker al sax, Gail Petrina al contrabbasso e Caleb Dolister alla batteria, un CD intitolato Somnambulist pubblicato dalla Cuneiform, dal quale noi ci siamo ascoltati proprio la loro composizione originale che dà il titolo all'album Somnambulist. Si tratta di un pezzo che come dire, simboleggia questa pubblicazione discografica ricca di grandi energie, con questa sezione ritmica veramente impegnata dal primo all'ultimo momento a sostenere con grande forza, con grande vitalità gli assoli di Warren Walker al sax. Una sezione ritmica che è protagonista, non soltanto accompagna o sottolinea, ma è protagonista di tutto il progetto discografico, in particolare anche di questa Somnambulist, Dickendinsky Effect. Adesso andiamo avanti con un altro artista interessante che ci viene dalla Crossover Media, e si tratta di un musicista che si presenta per la prima volta qui in Anima Jazz, David Chesky. David Chesky è un pianista, compositore che ha realizzato con il suo gruppo Jazz in the New Harmonic Quintet un CD intitolato Primal Scream, e insieme a David Chesky al pianoforte abbiamo Peter Washington al contrabbasso, Javon Jackson al sax tenore e poi Jeremy Pelt alla tromba, tutti musicisti molto conosciuti già con grande esperienza, e poi il grandissimo Billy Drummond alla batteria. David Chesky, come ho detto prima, non solo è pianista ma è anche compositore, e stasera ci ascolteremo una sua composizione originale intitolata Cultural Treason. Buon ascolto quindi con David Chesky dal CD Primal Scream. The Bene, ci siamo ascoltati il pianista David Chesky, che è pianista anche compositore. Infatti il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Cultural Treason ed era una sua composizione originale. Il gruppo col quale si presenta David Chesky è Jazz in the New Harmonic Quintet, il titolo del CD Primal Screen. La formazione vede Peter Washington al contrabbasso, Javon Jackson al sax tenore, Jeremy Pelt alla tromba e Billy Drummond alla batteria. Chiaramente leader del gruppo David Chesky al pianoforte. Come avete sentito, un pezzo in pieno stile mainstream, nel quale David Chesky ha offerto grande spazio ad ogni membro del gruppo per il suo pezzo solista, un pezzo nel quale ogni musicista esce fuori con le sue qualità ed è gradevole all'ascolto. Dopo David Chesky e il suo CD Primal Scream, adesso ci andiamo ad ascoltare l'orchestra napoletana di jazz. Si tratta di un CD intitolato In Concerto, registrato nel 2008 a Pomigliano Jazz nel Parco Pubblico, e è stato pubblicato da Itinera. Il gruppo dell'orchestra napoletana di jazz è formato da Annibale Guarino al sax alto e soprano, Marco Zurzolo al sax alto, Giulio Martino al sax tenore, Gianni D'Argenzio al sax tenore, Enzo Nini al sax tenore, Nicola Rando al sax baritono, Matteo Franza alla tromba, Matteo Sannini alla tromba, Peppe Fiscale alla tromba, Lello Carotenuto al trombone, Alessandro Tedesco al trombone, Pietro Condorelli alla chitarra, Pasquale Bardaro al vibrafono, Andrea Rea al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso, Salvatore Tranchini alla batteria, Meg Maria Di Donna alla voce e Mario Raia cura la direzione dell'orchestra. Stasera noi ci ascolteremo Distante. Buon ascolto quindi con l'orchestra napoletana di jazz. Così che il sole grazie. E questa era l'orchestra napoletana di jazz diretta da Mario Raia. E tra l'altro si tratta di un'orchestra con all'interno nomi di primissimo piano a livello nazionale, tutti, molti dei quali insomma sono leader di propri progetti discografici, sono musicisti di primo livello a livello nazionale. E vi ricordo velocemente: Annibale Guarino, Marco Zurzolo, Giulio Martino, Gianni D'Argenzio, Enzo Nini, Nicola Rando, Matteo Franza, Marco Sannini, Peppe Fiscale, Lello Carotenuto, Alessandro Tedesco, Pietro Condorelli, Pasquale Bardaro, Andrea Rea, Aldo Vigorito, Salvatore Tranchini, Meg, che sarebbe Maria Di Donna, e la direzione di Mario Raia. Il CD è intitolato In Concerto perché si tratta di una registrazione live al Pomigliano Jazz, al Parco Pubblico, nel 2008. Il CD In Concerto dell'Orchestra Napoletana di Jazz è stato pubblicato dalla Itinera e noi ci siamo ascoltati d'istante questa bella performance con la voce di Maria Di Donna. Lasciamo l'Orchestra Napoletana di Jazz con il CD live In Concerto ed andiamoci ad ascoltare un duo conosciutissimo che io tra l'altro promuovo nel Festival Radiofonico delle Voci Jazz Italiane da sempre. Si tratta del duo di Musica Nuda, formato da Petra Magoni alla voce e Ferruccio Spinetti al contrabbasso, un duo straordinario che fortunatamente viene apprezzato non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale, e che ha da poco realizzato un nuovo CD intitolato Little Wonder per la Warner Music, e noi da questo CD ci ascolteremo Practical Arrangement. Buon ascolto quindi con Musica Nuda con la voce di Petra Magoni. Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement with one roof above our head. Warm house to return to. We could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we'd find some earthly paradise forever. I mean, how often does it happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me given time. I'm not promising a moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary life. I'd be a model to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my husband with one roof above our heads, a warm house to return to? You wouldn't have to cook for me, you wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you, 'cause you're far too clever. But we could come to an arrangement, a radical arrangement. And perhaps you learn to love me, given time. It may not be the romance that you had in mind, but you could learn to love me, given time. Questa era la bellissima performance del duo di Musica Nuda, duo di Musica Nuda che, come sapete bene, è formato dalla cantante Petra Magoni e dal contrabbassista Ferruccio Spinetti. Un duo solido, con grande complicità di intenti, che da sempre ci offre, dalla sua nascita, dei progetti discografici e delle performance veramente di alta qualità. Petra Magoni è una straordinaria interprete di grande sensibilità, oltre che di grande capacità tecnica, per cui riesce ad affrontare qualsiasi tematica musicale risolvendola sempre con delle soluzioni coinvolgenti, emozionanti, che non lasciano assolutamente freddi, perché riesce sempre a coinvolgere con le sue interpretazioni così sentite, partecipate. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Practical Arrangement, tratto dal loro ultimo CD intitolato Little Wonder, pubblicato dalla Warner Music. E siamo arrivati all'ultimo pezzo della serata. Si tratta di un gruppo al primo progetto discografico. Sono giovani, The Noobs, che hanno realizzato questo CD intitolato Dysrhythmic. Il gruppo è formato da Manuela Pucciarini alla voce, Anna Lince ai cori, Miriam Fornari ai cori, Alessio Capobianco alla chitarra e poi abbiamo Luca Cipiciani alle tastiere, Pietro Paris al basso e Andrea Di Cintio alla batteria. Il progetto è interessante, sicuramente merita attenzione questo gruppo di giovani alla loro prima uscita discografica, e stasera ci ascolteremo The Song I Play. Buon ascolto con The Noobs. Bene, questa era la morbida musica del gruppo The Noobs, che si muovono tra new soul, new jazz, con queste atmosfere molto rilassanti che riescono a interpretare con grande scioltezza, con grande partecipazione. Il CD è intitolato Dysrhythmic, il pezzo che ci siamo ascoltati era The Song I Play. La formazione vede Manuela Pucciarini alla voce e poi le coriste Anna Lince e Miriam Fornari, poi abbiamo Alessio Capobianco alla chitarra, Luca Cipiciani alle tastiere, Pietro Paris al basso e Andrea Di Cintio alla batteria. Una grande passione per la black music, una grande passione per il soul, lo smooth jazz, e riescono a vivere questi amori con un loro prodotto sicuramente molto gradevole. The Noobs, e con The Noobs si conclude anche la puntata numero 656 di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.